face of our common dangers. Ich bin ein Berliner. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Good thing he at least saw it coming, because today President Obama finds himself with a plate about as full as it gets. This week the president is heading to Denmark. Insomma, ci potrebbe essere del marcio in Danimarca, vista le previsioni che circolano un po' su questa assegnazione dei giochi olimpici, che d'improvviso nel giro di una settimana è diventata una questione di prima pagina per gli americani. Non so se poi loro ci pensavano veramente, secondo me hanno altre cose per la testa. Ma poi la Casa Bianca, ovvero i due personaggi più in vista d'America e del mondo, hanno deciso di giocarla pesantemente sul personale, e così la questione appunto è diventata di prima pagina e adesso bisogna, come invocano i giornali americani stamattina, riportare indietro gli anelli. Andate, vincete e riportate, come diceva quel vecchio signore. Bisogna vedere, perché non è così facile, e il marcio potrebbe essere proprio questa concorrenza con molte motivazioni alle spalle di Lula e della candidatura olimpica che si contrappone a quella della Chicago di Michelle e Barack Obama, di Rio de Janeiro, la prima città sudamericana ad avere le Olimpiadi, e il premio a un excursus certamente di grande interesse che il paese di Lula, il Brasile, ha messo in scena negli ultimi anni. Ci sono i pro e i contro, gli stessi americani, gli stessi chicagoensi sono divisi se ospitare o no il grande evento. Abbiamo nei giorni scorsi parlato, no? Ci sono i repubblicani che remano contro, fanno vedere immagini di violenza nella città di Chicago, ma insomma, quanta violenza, non credo che Rio de Janeiro abbia niente da perdere. E venerdì arriva il verdetto, ci sono anche Tokyo e Madrid in corsa, ma attardate. Ed è uno di quegli esiti che hanno composto un po' la tavolozza, no? dei colori principali su cui la Casa Bianca si sta muovendo in questi giorni. Una serie di sfide, alcune delle quali previste, prevedibili, largamente annunciate, altre appunto come questa delle Olimpiadi di Chicago, arrivate un po' alla fine nel pannello delle cose in ballo. C'è la sanità, c'è la questione Afghanistan, su cui ieri si è svolto il nuovo vertice di tutti quelli che contano, tutti quelli che hanno qualcosa da dire, tutti quelli che hanno voce in capitolo, da Leon Panetta fino a McChrystal, che era in collegamento in videoconferenza da Kabul. Ha naturalmente tutto il meglio della Casa Bianca e del Pentagono. Pare, dicono i ben informati sui giornali americani di stamattina, che stia prendendo una certa prevalenza la linea Biden, la linea di cambiare proprio il gioco, cambiare non tanto le regole del gioco, proprio il gioco. Il gioco non è più sistemiamo l'Afghanistan, il Medio Oriente e tutto il mondo circostante. Il gioco torna a essere quello annunciato un po' sommessamente fin dall'inizio, cioè prendiamo Bin Laden e smantelliamo Al-Qaeda, con tutte le revisioni che eventualmente ciò permetterebbe. Ma comunque ci sono altre riunioni, la prossima è il 7, poi ce ne dovrebbe essere una conclusiva e poi il famoso annuncio di questa strategia della Casa Bianca sulla questione Afghanistan. Poi c'è il nucleare iraniano, di cui torneremo a parlare presto, e poi i recenti rovesci nella questione sanità sul piano domestico, sul piano interno. Però oggi è anche un giorno assai particolare, per cui lasciamo per un momento la questione America e andiamo altrove. Buonanotte, Cina. Buonanotte Cina, buon compleanno, credo si dica in questo caso. E sono in corso le celebrazioni per i 60 anni della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Leggo un'agenzia che recita: i militari hanno aperto la parata sparando 60 cannonate a salve. Poi è cominciata la sfilata. Marinai vestiti di bianco, soldatesse in mini abito color fucsia sono sfilati facendo il passo dell'oca davanti al rostro della città proibita, che si affaccia sulla piazza, il luogo dal quale il 1 ottobre 49 Mao Zedong proclamò la creazione della Repubblica Popolare. E poi leggo un estratto da Limes, di cui ora approfondiremo le motivazioni, che dice, recita così: grazie a un intelligente programma di stimolo keynesiano e a un allentamento del credito, mentre l'Occidente è impantanato nella recessione o al massimo in una crescita anemica, secondo Goldman Sachs la Cina espanderà l'economia a tassi per noi inimmaginabili, più 9,4 quest'anno, più 11,9 nel 2010, e non sono lucciole. Dalle liberalizzazioni di Deng Xiaoping in avanti, 300 milioni di cinesi sono entrati a far parte del ceto medio, l'equivalente della popolazione degli Stati Uniti. E io ringrazio e auguro buon pomeriggio a Lucio Caracciolo, che è qui con noi in studio per presentare questo numero Quaderni speciali di Limes, la rivista italiana di geopolitica. Il titolo del quaderno in questione è La Cina spacca l'Occidente. Ci sono poi dei titoletti di richiamo che indicano il percorso di questo studio a più mani: Il verdetto della crisi, Washington, Pechino, coppia di fatto, e l'Europa resta un bluff. Lucio, io vorrei proprio cominciare da queste due contrapposizioni che abbiamo citato adesso, no? L'agenzia che rimanda una visione della sfilata cinese, un po' in fondo a cui siamo abituati, come ancora un po' ce l'immaginiamo, soprattutto se abbiamo qualche anno, no? La Cina del passo dell'oca, delle ragazzine colorate, però poi del grande irrigimentamento, e poi invece la Cina completamente diversa, che il mondo deve ormai prendere atto e accettare come il fatto nuovo del XXI secolo. Ecco, la prima domanda che ti voglio chiedere, ti voglio fare è proprio questa: è una convivenza alla fine, soprattutto per noi occidentali che stiamo mangiando morso dopo morso questa mela, insomma, è una convivenza possibile queste due visioni? Ci abitueremo a questa convivenza? Mi pare che ci siamo già abituati, soprattutto gli americani si sono abituati alla grande, visto che, messe da parte tutte le velleità sui diritti umani e quant'altro, con la Cina ormai parlano solo di soldi. E ogni volta che un leader americano, come per esempio recentemente Hillary Clinton, va in Cina, parla sostanzialmente di questo, ma non solo, devo dire, si parla per esempio anche del possibile aiuto cinese in Afghanistan, di inviare soldati cinesi in Afghanistan, cioè questa famosa interdipendenza rischia di diventare un'alleanza. Ecco, nel saggio d'apertura del quaderno di Limes c'è un piccante riferimento a un atteggiamento che viene chiamato declinismo. Si dice che la Cina sia solo l'ultimo dei minacciosi fantasmi erroneamente evocati dagli americani nella paura che il loro predominio economico sia giunto al termine, e se ne evocano altri, no? Ma è un fenomeno che assume un senso completamente nuovo in questo scenario che ci circonda oggi. Sì, tu stai citando da un articolo di un analista americano, John Haltzman, che affronta le conseguenze geopolitiche della crisi economica, sostenendo che stiamo assistendo all'emergere, grazie alla crisi, di una nuova geopolitica fondata soprattutto sull'Oceano Indiano, sull'Asia, e in cui relativamente, sottolinea relativamente, gli Stati Uniti declinano. Per questo, diciamo, ci sono alcuni dati macroeconomici che dimostrano, se vogliamo, questa tesi. Il problema è capire quanto questo poi significhi in termini di potenza più generale, quindi geopolitici, e lì le cose sono un pochino più complicate. E in ogni caso credo che i primi a non volere un eccessivo declino dell'America siano ovviamente i cinesi, perché ormai il legame tra questi due paesi, non solo fra queste due economie, è tale per cui se le cose vanno male da una parte, i loro soldi stanno lì, vanno male pure dall'altra. Tra l'altro, insomma, più volte ho raccontato per esperienza personale come si è rapidamente cambiato l'atteggiamento di Washington nei confronti della Cina, no? 4, 5, 6 anni fa si andava a Washington e si partecipava a convegni in cui era facile sentire adombrare la possibilità di una guerra, per esempio una guerra vera con la Cina entro il XXI secolo, e comunque veniva considerato apertamente anche da personalità politiche come l'avversario per antonomasia, con la A maiuscola. Sono cambiate, è la grande differenza di fondo, io credo, tra questa amministrazione e quella di George W. Bush. Cioè, quell'amministrazione era comunque in cerca di un nemico. Questa sa di non potersi concedere questo lusso. L'America non è più in grado di fare delle guerre per scelta, al massimo le combatte per necessità. E anche quella che Obama ha battezzato come guerra per necessità, cioè quella in Afghanistan, sta diventando una guerra di scelta, e quindi, secondo me, è una guerra che probabilmente gli americani cesseranno di combattere prima di quanto non si pensi. Bene, torniamo a parlare tra poco. Vi ricordo che Lucio Caracciolo è qui perché l'IMES ha appena pubblicato questo quaderno speciale intitolato La Cina spacca l'Occidente. Ripensa ancora all'atmosfera che si respirava giù in strada, quando ci si viveva, quando il viaggio era trovare la strada migliore per me. Rischiare tutto alla roulette, spingendo il limite, sempre un po' al di là del possibile, in modo che il finale sia imprevedibile. Scusa se faccio forza su ciò che ho, scusa se ogni fish la giocherò. Non ho capito perché tu non sei riuscito, già resti nel mucchio e punti il dito. Inventori di storie stupide, pianta i tuoi cazzo di piedi per terra e scendi dalle nuvole. Allora. Buongiorno America. आज मिलिट्री परेड के अलावा एक सिविलियन परेड भी होगी जिसमें करीब 1,00,000 लोगों के हिस्सा लेने की insomma qualche eco della grande memorabile giornata di questo 60° anniversario della Repubblica Popolare Cinese. Leggo invece dall'articolo che il Sole pubblica oggi a firma di uno dei più gettonati editorialisti del momento, Ian Boruma, che scrive: la Cina è l'unica civiltà antica nella storia dell'umanità a essere riemersa come forza di primo piano a livello planetario. I cinesi di questo sono giustamente orgogliosi. E allora perché rompere il giocattolo? Meglio essere governati da uomini noiosi senza alcun carisma che manterranno le cose belle e stabili. In pratica la tesi principale sostenuta da Bruma in questo articolo è che il grigiore diffuso, la tetraggine, dice a un certo punto, del potere cinese è una delle grandi garanzie di tenuta, quando dall'altra parte del mondo, no, in questa America connessa ma al tempo stesso lontana di cui parlavamo prima, Lucio, abbiamo scoperto che l'uomo nuovo serve ancora, o forse si spera che serva ancora. Ma devo dire, a me tutto questo grigiore la Cina non lo trasmette, ovviamente ho una conoscenza del tutto superficiale, ma la mia impressione è che ci sia molto, molto più dibattito e molta più vivacità nella Cina di quanto non si possa leggere e immaginare, e comincia anche a venire fuori, insomma. Tutta questa crescita economica alla fine qualche cambiamento di carattere politico inevitabilmente lo porterà. Potrà avvenire anche in termini conflittuali, ma immaginare che si possa mantenere l'attuale sistema politico è del tutto impossibile, secondo me. Oh, nel quaderno di Limes c'è l'articolo in particolare di Rampini, ma poi c'è una sezione, addirittura un gruppo di articoli che punta proprio sul ruolo particolare, ma particolare per irrilevanza, occupato dall'Europa, no? in questi giochi d'inizio ventunesimo secolo. È così vero, insomma, noi quando interloquiamo con i nostri europei interlocutori le crisi purtroppo non aiutano l'Europa, nel senso che ne rivelano tutti i limiti e ne rivelano soprattutto l'inconsistenza politica. Abbiamo visto come tedeschi, francesi, inglesi, italiani abbiano adottato risposte ciascuna per proprio conto, talvolta anche contro il vicino, senza un minimo di intesa fra loro. Qui ci vuole velocità e decisione, quella che c'hanno gli americani, quella che c'hanno i cinesi. Noi non ce l'abbiamo, né come italiani né come europei. Il problema è che la morte dell'eurocentrismo, come dire, avverrà prima di fatto che a livello intellettuale, dove continuerà a essere dominata a lungo, immagino, speriamo, la questione da intellettuali europei. Speriamo, almeno un ruolo ce l'abbiamo. Ma un lavoro, dice. Sì. Ma no, credo che in realtà il declino dell'Europa sia comunque un declino relativamente dolce finora. Io penso che siamo stati molto fortunati nella gestione del declino, e c'è un indicatore comunque che è abbastanza forte: la gente in Europa continua a volerci venire piuttosto che a volersene andare. Good morning. It is a great honor to welcome you to the first meeting of the strategic economic dialogue between the United States and China. Ecco, queste sono le parole con cui Obama a un certo punto ha rotto un po' la logica della G, no? Ha fatto capire al mondo che tutto sommato conveniva prendere la scorciatoia per fare cose che servono a qualcosa, e ha inaugurato questa serie di confronti diretti, questo G2 che improvvisamente è diventato il G per antonomasia, quello con la lettera maiuscola, che sta riscrivendo un po', no, la diplomazia funzionante o funzionale di questo periodo, è così? Sì, perché ha una base strutturale a differenza di altri G, cioè si basa sull'interdipendenza delle due maggiori, o meglio dell'economia maggiore, di quella che può diventare presto la seconda e forse in un futuro non lontanissimo anche la prima, cioè la Cina. Questa interdipendenza crea evidentemente la necessità di trovare compromessi, di trovare strategie comuni o quantomeno non conflittuali. In ambito G8 o G14 o in altri ambiti ci sono interessi troppo eterogenei e potenze troppo eterogenee fra loro e quindi è difficile trovare un compromesso. Uno degli argomenti preferiti, prediletti o comunque più percorsi in questo periodo dalla stampa occidentale come al solito è la questione democrazia, no? Anche alla luce appunto di quell'apertura che abbiamo fatto prima con questa parata così visibile ma così però intrisa di una disciplina insomma non completamente spontanea e che poi però una questione di democrazia che si spinge su territori anche più spinosi, più difficili. Sarà una questione ed è una questione su cui esiste una possibile capacità di intervento da parte del mondo nei confronti della Cina? Beh, la capacità di intervento del mondo dipende dalla capacità del resto del mondo e innanzitutto dell'America, ma in qualche misura anche nostra, di collegarci alla Cina nel senso non solo economico e finanziario, ma anche degli scambi commerciali, ma culturali, materiali, ma anche immateriali. La Cina si è aperta sempre più al mondo e inevitabilmente si è aperta anche dentro, nel senso che sta nascendo una vera opinione pubblica cinese. Ci sono forme di, chiamiamole così, di democrazia controllata a livello locale, per esempio Hong Kong, che hanno preso piede, e io credo che il monopolio del potere del Partito Comunista abbia quantomeno i decenni contati. Invece, andando un attimo per concludere sul territorio un po' più della cultura popolare, anche del costume, uno dei fenomeni che è stato analizzato a margine di questi festeggiamenti, ma uno dei fenomeni un po' trasversali nella Cina naturalmente urbana, borghese, anche più informata, forse anche un po' più brillante, è questo riaffiorare però in chiave un po' post, tra virgolette, del mito di Mao, no? Oltre a livello editoriale, addirittura a livello estetico, c'è c'è qualcosa che può essere semplicemente una nostalgia o forse addirittura un postmoderno cinese? Che cos'è? Ma vedendo oggi la parata delle icone, in realtà più che Mao ho visto Deng Xiaoping e ho visto naturalmente le due icone viventi, il predecessore di Hu Jintao, Jiang Zemin, e naturalmente Hu Jintao, presidente attuale della Cina. Io penso che Mao in prospettiva avrà un ruolo quale quello occupato per esempio adesso da Sun Yat-sen, cioè dal fondatore della Repubblica Cinese, che più che l'ideologo del comunismo cinese, come è stato poi di fatto Mao, è stato il rifondatore dell'impero di mezzo, insomma di questa potenza cinese che ora sta finalmente esprimendosi a 360 gradi. In sostanza, Lucio, ci abitueremo alla Cina. Negli articoli che escono oggi si parla di una gioventù cinese che fatica a capire di che cosa si parla, parlando di Mao, parlando anche di piazza Tiananmen. Il passato li interessa sempre relativamente. Noi invece ci stiamo abituando alla Cina e i nostri ragazzini, per dirne una. Innanzitutto, no? Sì, ma diciamo che i cinesi sono più abituati a noi di quanto noi siamo abituati ai cinesi, nel senso che in particolare i cinesi hanno una simpatia epidermica e naturalmente anche una rivalità politica, ma insomma una simpatia epidermica verso gli Stati Uniti d'America e verso il modo di vivere americano. Sono molto pragmatici, hanno un interesse per i soldi un pochino più spiccato del nostro, senza quei pudori che coltiviamo noi europei. E vorrebbero essere americani, insomma, almeno una gran parte di loro. Poi hanno naturalmente anche un fortissimo orgoglio nazionale, quindi è un sentimento ovviamente un po' contraddittorio, ma su questa base di simpatia reciproca c'è un'apertura. Da parte americana invece vedo sempre una certa diffidenza, in qualche caso si potrebbe anche... Una differenza che poco fa fuori onda dicevi, di razzismo, potrebbe anche tornare da un momento all'altro. Sì, insomma, voglio dire, quelli sono diversi, insomma. Io con un io americano, con un europeo, con un russo, con un brasiliano, più o meno siamo più o meno parte di una stessa comunità. Il cinese è un mistero ed è un mistero doloroso. Va bene, concludo chiedendoti, saltando di palo in frasca, ma approfittando della tua presenza, un parere su questa questione Afghanistan e su questa direzione che dicevamo in apertura sembra prendere improvvisamente una certa prevalenza, forse in mancanza di altre soluzioni, per creare una strada percorribile, ovvero la progressiva riduzione, no, degli obiettivi e tornare un po' al punto di partenza, cioè l'uomo che fece l'attentato e quant'altro. Sì. Noi abbiamo una sola certezza sull'Afghanistan, che a un certo punto ce ne andremo. Il problema è quando e come. Credo che gli americani vorrebbero andarsene più prima di quanto pensassero qualche tempo fa. Il problema è che cambiando strategia ogni 3 mesi è un po' difficile dare il senso di una strategia. Va bene, grazie. Era Lucio Caracciolo, ha presentato insieme a noi, oltre ad aver partecipato a questa piccola celebrazione, diciamo così, dell'anniversario della Repubblica Popolare Cinese, il numero 60, ma anche un quaderno speciale Limes che si chiama La Cina spacca l'Occidente, con partecipazioni varie e numerose. E questo era Buongiorno America, io sono Stefano Pistolini, in redazione Gloria Guerrera, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Carmelo Lauricella, alla mail buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook c'ha il nome vecchio, ovvero redazione Jefferson 3, la replica a mezzanotte e qualche cosa, all'una e mezza a qualche cosa, domani ci trovate qui su Radio 24 e state tutti bene.